siamo riusciti a radunare tutte quelle realtà del territorio che hanno istanze da proporre e da far conoscere e che sono tutte nella stessa situazione con l'amministrazione comunale, nel senso l'amministrazione comunale finge di fare percorsi partecipati e di dare spazio e voce ai cittadini e poi in realtà ignora tutto quello che proviene dalla cittadinanza. Ho visto che ci sono state anche delle polemiche per articoli di stampa che hanno voluto vedere in questo vostro incontro una sorta di organizzazione di una lista per le prossime elezioni, è così? Sì, questo è un modo per depotenziarci e per distruggere il movimento che sta nascendo, cioè dire che abbiamo un fine elettorale. Ovviamente non è questo lo scopo è proprio quello di auto-organizzarsi dal basso e dire a questa amministrazione guarda che esiste un'opposizione e che tu devi ascoltare i cittadini a prescindere dal fatto che siano organizzati in una lista elettorale. Quindi insomma da questo incontro cosa nasce? Un maggior coordinamento, delle pratiche comuni? Questo è solo un primo passo per definire gli obiettivi comuni, nel senso che ieri è stato più un modo per essere presenti e per testimoniare solidarietà al Giardino San Leonardo e per portare ognuno una testimonianza. Poi tutto il percorso è da avviare. Come dicevi, a parte il Giardino San Leonardo, c'erano anche altre vertenze che hanno dei tratti in comune nei rapporti con l'amministrazione. Certo, ecco, quali sono queste esperienze? Sono tutte simili, nel senso che sono tutte esperienze di comitati che si sono formati per reagire alla speculazione che vengono costantemente ridotti dall'informazione a movimenti ecologisti. Il movimento ecologista nasce nel momento in cui c'è un atto di aggressione del territorio, quindi un atto di speculazione. Quindi sono movimenti ecologisti che difendono il territorio da un'aggressione e da una speculazione. Per esempio c'era Bertalia Lazzaretto, che è in grave pericolo perché anche lì si vuole realizzare una speculazione, distruggendo il verde esistente con gravi conseguenze per tutti. Poi c'era il Parco Don Bosco, il Comitato Bessa, quindi, che ha portato ovviamente di nuovo alla ribalta la questione della scuola, cioè c'è una scuola che il comune non vuole utilizzare come scuola, ma per quale motivo? Esiste, se la puoi utilizzare per un altro scopo, utilizzala come scuola. Poi ovviamente ci siamo noi, che siamo un caso emblematico perché rappresentiamo l'incrocio di tantissimi interessi. Lì non c'è solo la questione di Johns Hopkins e dei suoi interessi speculativi, ma c'è la questione delle case Acer. Il giardino è solo l'antipasto. Sia voi e San Leonardo che nel Parco Don Bosco, però una prima battaglia l'avete vinta. Avete capito come siete riusciti a vincere questo primo round? Allora, noi abbiamo vinto, ma l'amministrazione cosa fa? Ignora le nostre vittorie, cioè congela momentaneamente la vittoria e poi riprendere come se non fosse successo niente. Noi abbiamo vinto perché, soprattutto al Parco Don Bosco, perché diverse realtà si sono unite insieme, superando a volte anche le gravi differenze che c'erano a separarle. È un modello da replicare ovunque. Vi siete già dati prossimi appuntamenti? Sì, abbiamo degli appuntamenti di massima per il prossimo fine settimana, sia al Guernelli che al Centro Costa, però uno dei problemi che si pone, per esempio, è proprio lo spazio per l'auto-organizzazione. Cioè, noi siamo sempre ospiti di qualcuno, perché la sottrazione degli spazi non è solo la sottrazione degli spazi per il vivere quotidiano, è proprio la sottrazione degli spazi democratici che invece vengono assegnati ai luogotenenti dell'amministrazione, tutte le associazioni amiche di questa amministrazione e obbedienti.